Sono 2 anni che si parla del riordino del settore energetico e la montagna ha partorito il topolino, per adesso, per il momento. Il Senato ha votato questo riordino, toccherà adesso alla Camera, e di fatto questo provvedimento in parte è stato svuotato anche delle cose peggiori, comunque di quelle che il governo voleva anticipare, cioè praticamente di tutta la parte del cosiddetto sblocca centrali che poi è stato approvato nel 2003, e anche sulle cosiddette fonti rinnovabili, anch'esso un provvedimento ad hoc. Sia lo sblocco centrale che le fonti rinnovabili naturalmente contro l'ambiente, perché lo sblocco centrale inibisce tutti quanti i progetti, i processi di valutazione di impatto ambientale. Il cosiddetto provvedimento sulle fonti rinnovabili in realtà include fra le fonti rinnovabili anche i rifiuti, e questo è già oggetto di infrazione da parte della Commissione europea. Il voto di ieri del Senato ha introdotto un ulteriore elemento, facendo tornare in auge il problema della Sogin, la società pubblica che gestisce la questione dello smantellamento di centrali nucleari e dei rifiuti, perché con un emendamento del senatore Pontone, relatore di maggioranza di AN, nonché presidente della Commissione Industria, si è tornati su quello che già era, diciamo, uscito dopo le grandi polemiche e la mobilitazione che c'era stata sul decreto Scanzano, appunto, dalla porta, e cioè che la Sogin non doveva gestire tutte quante le scorie, quindi anche quelle di prima e di seconda categoria, e che sostanzialmente doveva operare sul territorio nazionale, ma si consente di nuovo alla Sogin di gestire, appunto, tutte le scorie, anche quelle a minore radioattività, per fare business sostanzialmente, e oltretutto si stabilisce che possa operare anche con proprie strutture, le proprie strutture sono nel deposito nazionale, anche all'estero, il che, non essendoci un divieto in Italia delle importazioni di rifiuti radioattivi, fa temere che in realtà l'obiettivo principale sia quello di utilizzare il deposito nazionale italiano anche per l'import export di rifiuti dall'estero. L'altra questione molto grave è l'insistenza che questo governo come ossessione ha su semplificare e accelerare le procedure, appunto, di valutazione di impatto ambientale. Anche in questo provvedimento ci sono vari commi, esattamente dal 25 al 27, e poi un comma speciale per quanto riguarda la via ordinaria, che stabilisce che, appunto, le procedure di via semplificata e accelerata si devono concludere con un atto di autorizzazione unica, sia per gli impianti oltre i 300 megawatt di produzione di energia elettrica e per gli elettrodotti, assolutamente e tassativamente entro 180 giorni. Quindi siamo alle solite: i diritti dei cittadini vengono calpestati e quelli dell'ambiente non esistono, né esiste il quadro molto più avanzato indicato dal protocollo di Kyoto e dalle direttive comunitarie in materia di energia.